Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo chiaramente di Davos e del confronto, anche se non diretto chiaramente, tra due visioni del mondo, tra due mondi. A mio avviso non c'è solo il tema importantissimo della sostenibilità ambientale e nel confronto tra sorrido perché c'è un ascoltatore che prima ancora che inizi ne ha già le scatole piene, vabbè, ha ampio margine per fare altre cose. Dicevo, non c'è solo confronto tra due visioni sul contenuto diverse, quella di Trump che dice sostanzialmente non bisogna essere pessimisti ma occorre essere ottimisti sul futuro e il pessimismo non porta nulla di buono, e sappiamo che Trump ha sempre negato o minimizzato al massimo il problema ambientale. Anche oggi ha detto da Davos sono profeti di sventure gli ambientalisti, non è momento del pessimismo sul clima. Dall'altra parte abbiamo invece Greta, ma al di là di quello che uno possa pensare sul pericolo climatico, difficile dubitare in questo momento che vi sia un problema di surriscaldamento del pianeta, poi le soluzioni possono essere diverse, però il problema è, al di là delle polemiche che ho già fatto io su Davos ieri, poi vi torneremo, nel senso che un summit, un incontro dove ci sono decine di aerei privati parcheggiati, non mi sembra, se volevano fare qualcosa veramente sul clima potevano fare una videoconferenza, avessero voluto fare una cosa sul clima. Però al di là di questo, il punto mi sembra proprio di frattura generazionale, non solo sul tema dell'ambiente. Cioè abbiamo due mondi che si scontrano e in qualche modo Trump e Greta li rappresentano anche da un punto di vista politico. C'è un mondo, e ce lo dicono varie ricerche, lasciate stare l'età in senso stretto, però di chi ormai ha un'età più vicina a quella di Trump, possiamo dire, o perché sta uscendo dal mondo del lavoro, perché è già uscito dal mondo del lavoro e viene da una memoria storica, diciamo, del dopoguerra, in cui la ricchezza si è creata con uno sviluppo continuo che ha portato decine di milioni di persone fuori dalla povertà nel mondo occidentale e poi da fine anni 90 anche nei paesi in via di sviluppo, nelle economie in via di sviluppo, e dice questo è il migliore dei mondi possibili. E sostanzialmente non ci rompete le scatole, alcuni dicono che è una generazione che non vuole rinunciare a quella che in inglese si chiama comfort zone, cioè un'area di comodità. E dall'altra parte c'è il mondo dei, possiamo chiamarli nipoti, nel senso che anagraficamente Greta potrebbe essere la nipote di Trump, che sono preoccupatissimi del loro futuro, e mentre una volta si diceva, ricordo i ragionamenti di 10-15 anni fa, la precarizzazione del lavoro verso i giovani fa sì che le giovani generazioni si sentono più vicine ai loro nonni che venivano da esperienze più difficili di accumulo della ricchezza, di lavoro, rispetto ai genitori figli del boom economico, del tutto facile. Adesso a mio avviso si è rotto anche questa specie di così legame tra nipoti e nonni, perché a mio avviso la giornata di oggi dimostra chiaramente due visioni del mondo completamente diverse e una voglia di disimpegno da parte di chi dice basta essere pessimisti, questo è un mondo bellissimo, e una preoccupazione enorme in chi ha, non dico l'età di Greta, ma anche qualche anno in più. Questo mi sembra il portato più forte, perché poi uno può scontrarsi quanto vuole sul reale impatto dell'industria, dell'economia e quindi della produzione, delle emissioni di CO2 e quant'altro sul surriscaldamento globale, che è in atto, almeno su questo possiamo convenire tutti, però qui c'è proprio un problema di salto generazionale e di due mondi che non si parlano minimamente, hanno due visioni completamente diverse. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, chiaramente parleremo anche di altre cose emerse da Davos, ma mi sembra chiaramente la cosa più palese è questo scontro totale tra i due, non che siano, che è stato uno scontro verbale, ma proprio uno scontro di visione. E guardate che non è così scontato che si rompa un patto, diciamo, tra nipoti e nonni, perché sappiamo che nel passato invece vi era una preoccupazione anche delle generazioni che ormai andavano verso un'attività meno produttiva, verso le generazioni future. Allora, per quello che riguarda i temi invece del programma, ho capito che Greta non rappresenta tutti i giovani, ma rappresenta un'istanza che è molto sentita soprattutto nelle generazioni più giovani. Questo, al di là del giudizio che uno possa piacere o non piacere Greta, restiamo sui fatti da questo punto di vista. Allora, invece parleremo in apertura sempre in tema di giovani, in questo caso del lavoro dei giovani. Domani è la giornata nazionale di Orienta Giovani, che è la manifestazione che ogni anno Confindustria dedica a confrontare imprenditori, studenti, insegnanti e genitori per far conoscere e in qualche modo anche avvicinare le nuove generazioni all'industria manifatturiera, su cui ancora esistono molti pregiudizi, luoghi comuni e quant'altro. 26esima edizione, oggi ne parleremo perché c'è anche un rapporto interessante su come combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile, e domani invece tratteremo il tema di quello che è emerso, cioè delle resistenze ancora che vi sono nel capire com'è cambiata in questi anni l'industria manifatturiera, che non è più la fabbrica, diciamo, di Chaplin o la fabbrica degli anni 50, e attrarre giovani che servono tantissimo. Ogni volta che esce il rapporto Excelsior noi ricordiamo come sia stimato in almeno 450.000 il numero di nuovi lavori richiesti, e con tassi però di irreperibilità, lo ricordavamo 2 settimane fa, che in alcuni profili periti, fresatori, saldatori, periti informatici, toccano il 60%, cioè il 60% delle richieste non riesce a essere evaso, cioè non riescono a trovare figure professionali. Questo per quello che riguarda l'apertura. Poi, come sempre, i mercati finanziari. Vedo molti messaggi su Greta e Trump. Guardate, non voglio entrare nell'opinione personale, capisco anch'io che è difficile andare in Cina, in India o in Vietnam e chiedere a loro di non perseguire certi modelli di sviluppo che noi abbiamo nel mondo occidentale perseguito fino a qualche anno fa, e il modello loro è acquisire potere d'acquisto. Però è chiaro che il pianeta, il sistema non tiene in questo modo. Tutta la polemica sulle plastiche, le plastiche in mare e quant'altro, andate a vedere da dove arriva il grosso di queste plastiche in mare. L'Europa giustamente si è posta degli obiettivi ambiziosi, ma l'Europa partecipa al 10% delle emissioni del CO2, quindi anche se riuscissimo con un enorme sforzo a dimezzarle, se non c'è consenso nelle economie emergenti, Cina e India in primis, già belle che emerse, e poi nella principale economia del pianeta, l'Europa può diventare un caso virtuoso, un'isola felice, ma nulla di più. Per cui mi rendo benissimo conto che non si può fare un discorso da salotto o da caminetto, i cinesi, gli indiani devono consumare di meno, produrre di meno. Sì, vaglielo a spiegare dopo che si sono appena affacciati, diciamo, alla società di mercato e hanno visto in questi anni crescere il loro potere d'acquisto. Però è chiaro che una soluzione va trovata, e a mio avviso, più che la soluzione politica, bisogna che qualcuno mi scrive: nonni multimiliardari se ne fregano del futuro dei nipoti. Ecco, speriamo non sia così. Comunque ne parliamo nella seconda ora del programma. Dicevo, oltre al tema dei lavori e dell'incontro tra lavori, come sempre i mercati finanziari, e anche un tema che è emerso da Davos in parte, cioè l'atteggiamento molto duro di Trump nei confronti dei paesi europei che vorrebbero applicare la famosa web tax, cioè la tassa per far pagare i colossi del web le tasse da dove fanno i ricavi, non dove più gli conviene. Perché ieri Macron ha accettato, diciamo così, di far slittare nella decisione sulla web tax, dopo che Trump aveva detto che avrebbe messo 2 miliardi e 400 milioni di dazi, o meglio, dazi su beni equivalenti a 2 miliardi e 400 milioni che gli Stati Uniti importano dalla Francia, se avesse applicato la web tax sui colossi web. E oggi Mnuchin, il segretario al tesoro, cioè il ministro dell'economia americano, Steve Mnuchin, in un'intervista a Wall Street Journal dice che dopo la Francia, che ha accettato di rinviare l'applicazione dell'imposta, dopo le minacce degli Stati Uniti, rischiano adesso Italia e Gran Bretagna. Sappiamo che il nostro governo in finanziaria ha messo una web tax che dovrebbe portare circa 780 milioni di euro Ora, al di là del ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che ha detto siamo sulla buona strada, sulla web tax, a me sembra chiaro, e al di là del vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, che dice la Commissione europea spinge per una soluzione globale, sembra chiaro che quando l'America va a prendere in maniera bilaterale i singoli paesi, l'Europa è un insieme di vasi di coccio. E cioè, se l'America inizia a minacciare la Francia, vedi che Macron poi alla fine ha fatto buon viso cattivo gioco, o l'Italia singolarmente, o la Gran Bretagna, altra cosa sarebbe minacciare l'intera Europa, Unione Europea. Il problema è che l'Unione Europea non è d'accordo su questo, e quindi da un lato anche questo caso dimostra come si è molto più forte nel trattare con un gigante come gli Stati Uniti, e vale anche per la Cina, quando si è uniti e non quando si è singoli paesi che contano poco, e vale anche per la Germania. Dall'altro però dobbiamo registrare che l'Europa anche su questo tema è divisa, perché esistono due paesi soprattutto, cioè Lussemburgo lo considero meno, e cioè Olanda e Irlanda, che non ne vogliono sapere di perdere diciamo, il vantaggio che hanno nel far pagare le tasse in quei paesi e non dove i ricavi vengono effettuati. I mercati, dicevo, meno 0,70% Milano, invariata Francoforte, meno 0,60% Parigi, meno 0,70% Londra, Dow Jones meno 0,16%. Tra i titoli bene Banco BPM più 2,20%, Biper più 1,20%, Recordati più 1, Amplifon più 0,80%, Juventus più 0,60%, negativa Case New Holland, CNH Industrial meno 2,30%, Moncler meno 2,20%, Prismian meno 1,90% come Atlanti, all'1,60% lo perde Era, l'1,50 Terna, Nexi ed Eni, l'1,30 Pirelli, Ferrari, infine l'1% del calo di Ferragamo e di Snam. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Sì, chiaramente volevo dire che parliamo delle emissioni di CO, non di CO2, quindi di monossido di carbonio, ma anche di polveri sottili, anche di tutto quello che sta aumentando il riscaldamento globale. Comunque, abbiate un po' di pazienza, adesso vi arriveremo, anche se di Davos parliamo anche nelle nostre notizie in breve, perché Greta Thunberg ha detto: non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione. Ma la scienza e i giovani non sono al centro del dibattito sul clima. Si tratta del nostro futuro e c'è bisogno di portare la scienza al centro della conversione verso un'economia più sostenibile, più verde a livello globale. Tutti parlano del clima, ma nessuno è cambiato, ma nulla è cambiato. Così Greta Thunberg durante un panel al Forum Economico di Davos. It's a different from being heard and from that. C'è differenza tra l'essere ascoltati e il fare effettivamente qualcosa. Io di certo non posso lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione. Ma in generale la scienza e la voce dei giovani non sono al centro del dibattito sul clima, mentre invece dovrebbero esserlo. Si tratta del nostro futuro, delle generazioni future e certamente di chi già è colpito. In particolare, c'è bisogno di portare la scienza al centro della discussione. Il clima e l'ambiente sono temi caldi ora, grazie soprattutto a tanti giovani che sollevano questo argomento. Nessuno se lo sarebbe aspettato, c'è una maggiore consapevolezza. Ma da un altro punto di vista, non è stato fatto nulla. Le emissioni di CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo. Stiamo lottando per l'ambiente e per il clima, ma su questo, se guardiamo da una prospettiva più ampia, non è stato fatto un granché. Ce lo aspettavamo. Abbiamo bisogno di fare molto di più e questo è solo l'inizio. It will require much more than this. This is just the very beginning. Allora, alcuni mi scrivono dicendo che Greta in realtà rappresenta, addirittura è finanziata dalle grandi multinazionali presenti a Davos, che vogliono uscire dalla stagnazione spingendo sul green. Guardate, Io non mi occupo di dietrologia o di... Ma ammettiamo anche che la causa di Greta sia stata sposata dalle multinazionali. Ma chi se ne frega se l'obiettivo è corretto, cioè se si va verso un'economia più sostenibile, l'economia circolare. Tra l'altro poi darò dei dati diffusi dal colosso bancario olandese ING, che andando a guardare come si comportano i paesi europei, una volta tanto l'Italia è tra i più virtuosi in assoluto sul riciclo, e quindi riciclo da un lato, ma soprattutto riciclo e riutilizzo nelle tre R, riduzione dei rifiuti, riciclo e riutilizzo. Siamo messi molto bene, devo dire anche qui però con una grossa spaccatura nel paese, cioè il centro nord ha dei dati da paese scandinavo, il sud invece anche per via di assenza di modo di utilizzare questi rifiuti, e di oggi il tema delle piattaforme si stanno saturando anche per l'assenza dei termovalorizzatori, non smetterò mai di dirlo. Comunque c'è un dato più che positivo sul nostro paese, su quanto per esempio riusciamo a fare la differenziata. Poi sappiamo tutti che la differenziata non è in automatico riciclo, ahimè, però insomma già è un punto di partenza. Comunque qualcuno mi scrive: la ragazzina ci costerà decine di migliaia di disoccupati e di poveri. Guardate, è chiaro che qualunque processo di transizione economica vale più per la digitalizzazione dell'economia, secondo me, che per l'economia verde o circolare, porta anche a disoccupati e a cambiamento di occupazione. Ma infatti il punto in questo caso è gestire i fenomeni, non né fare i fenomeni né immaginare così cambiamenti radicali, drastici. Però io sono d'accordo con altri ascoltatori che dicono: guardate che l'economia verde, l'economia circolare è economia, e quindi non è, diciamo, povertà. E anche nei paesi in via di sviluppo si potrebbe far capire, devo dire, la Cina su questo è già ha quantomeno una grossa sensibilità. È talmente forte il problema dell'inquinamento in città come Shanghai, ma non solo, che è da anni che il governo cinese si pone un tema di vivere comune. Non voglio affiancare a questo altri ragionamenti, però insomma abbiate pazienza, ne parliamo alle 18. Andiamo avanti con il resto dei temi. Sentiamo però anche Trump, che invece è intervenuto dopo Greta e ha detto sì, gli Stati Uniti parteciperanno all'iniziativa 1 miliardo di alberi contro il cambiamento climatico, Plant for the Planet, però ha criticato gli ambientalisti dicendo che sono profeti di sventure. I'm proud to report the United States is among the cleanest air and drinking water on earth. Sono orgoglioso di riferire che gli Stati Uniti sono tra le nazioni con l'aria e con l'acqua più pulite sulla Terra, e faremo in modo di mantenerle così. È appena uscito un rapporto che constata che in questo momento aria e acqua non sono mai state così pulite negli ultimi 40 anni. Ci stiamo impegnando nel conservare la maestosità del creato di Dio e le bellezze naturali del nostro mondo. Oggi sono felice di annunciare che gli Stati Uniti faranno parte dell'iniziativa 1000 miliardi di alberi, lanciata qui al World Economic Forum. E facendo così continueremo a mostrare una forte leadership nel crescere e nel gestire meglio i nostri alberi e le nostre foreste. Questo non è il tempo del pessimismo, questo è il tempo dell'ottimismo. Paura e dubbi non aiutano un buon processo mentale, perché questo è un momento di grande speranza, di gioia, di ottimismo e di azione. Ma per accogliere le possibilità di domani, dobbiamo respingere gli eterni profeti della catastrofe e le loro previsioni di Apocalisse. Sono gli eredi dei folli indovini del passato e sono ovunque. Vogliono vederci fallire, ma non permetteremo che accada. Ripeto, qui secondo me c'è uno scontro proprio culturale tra chi, come si diceva una volta, ha gli orologi e chi ha il tempo, nel senso tra chi ha una ricchezza accumulata che si è accumulata con un modello produttivo che è quello che va avanti, diciamo, dal dopoguerra in poi, con alcune modifiche, insomma, di espansione economica continua. Pensate a Trump stesso, come ha costruito la sua ricchezza, un mondo degli anni 80 che non esiste più, nel bene o nel male, e chi invece si preoccupa non tanto degli orologi che non ha, ma del tempo che ha davanti. E mi riferisco alla generazione di Greta. Trump ha anche parlato dell'accordo, cambiando radicalmente il tema dell'accordo concluso con la Cina da una parte, Messico e Canada dall'altra, sui dazi, o nel caso della Cina per evitare la fase 2 dei dazi, definendolo il miglior accordo di sempre. Today I'm proud to declare that the United States is in the midst of an economic boom the likes of which the world has never seen before. Oggi sono orgoglioso di proclamare che gli Stati Uniti sono nel mezzo di un boom economico come il mondo non ha mai visto prima. Abbiamo riguadagnato il nostro passo, abbiamo scoperto il nostro spirito e abbiamo risvegliato il potente motore delle imprese americane. L'America sta al posto di guida, l'America sta fiorendo e sta vincendo come mai prima d'ora. Solo la scorsa settimana abbiamo concluso due accordi straordinari sul commercio, con la Cina da una parte e Messico e Canada dall'altra. I migliori accordi di sempre. Allora, andiamo avanti con altre notizie. Sì, Trump ha detto, tra l'altro non è vero che non è mai cresciuto così l'America, l'America ha tassi anche di crescita più forti, però chiaramente anche lui è in campagna elettorale. Andiamo avanti con altre notizie che non riguardano gli elementi di carattere internazionale, o meglio ce n'è una che riguarda i prestiti alle imprese. Ce ne siamo occupati la settimana scorsa per quello che riguarda l'Italia, perché i dati dell'ABI segnalavano un calo brusco dei prestiti alle imprese e la motivazione più forte era che erano le imprese che chiedevano meno soldi alle banche, anche se non è sempre così. Oggi nell'area euro il dato riguarda nel quarto trimestre del 2019, si è registrato un ribasso della domanda netta di prestiti delle imprese dell'8% ed è la prima flessione dal 2013. Questo come conseguenza delle incertezze sulle prospettive dell'economia globale. L'indagine l'ha condotta la Banca Centrale Europea su 144 banche nel dicembre scorso. Ancora due notizie, 2/3 notizie. L'apporto dell'agricoltura all'economia del nostro paese è nel rapporto di Istat diffuso oggi, una stima preliminare sull'andamento del settore agricolo con 32 miliardi di euro di valore aggiunto. L'agricoltura in Italia è al primo posto in tutti i paesi europei, anche davanti alla Francia che ne ha 31 miliardi e Spagna 26 miliardi e mezza come apporto al PIL complessivo. Tra l'altro, per quello che riguarda invece la produzione agricola del 2019, si è ridotta dell'1,3% in volume, soprattutto per la produzione di vino, diminuita del 12%. Parliamo sempre di volume, non di valori. Al contrario, la produzione di olio è cresciuta del 32% dopo il crollo del 36% registrato nel 2018. La flessione della produzione vinicola è stata determinata soprattutto da fattori climatici sfavorevoli. Alitalia Ilva. Allora, mentre il commissario straordinario dell'Italia Giuseppe Leo Grande in audizione alla Commissione dei Lavori Pubblici ha detto: abbiamo di fronte un orizzonte temporale molto ambizioso, il 31 maggio, che vorremmo e faremo di tutto per rispettare, il compito è complesso. Per quello che riguarda invece la vicenda ArcelorMittal, ex Ilva, oggi i legali dei commissari dell'ex Ilva, nella memoria depositata, hanno detto che le conseguenze economiche, se dovesse andare via ArcelorMittal, sarebbe di 3 miliardi e mezzo sul PIL, cioè lo 0,2% del PIL nazionale e lo 0,7% del PIL del nostro mezzogiorno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Adesso andiamo su meteo, pubblicità e poi partiamo con e continuiamo anzi nel nostro viaggio sulla formazione. Non solo perché è il mese in cui si scelgono gli istituti superiori, ma perché è un tema che ci interessa tantissimo, perché in questo paese, un paese diciamo maestro nella retorica, si parla sempre dell'importanza della famiglia e non si arriva mai a dare vantaggi fiscali per chi i figli li fa veri. E si parla sempre dell'importanza della formazione, avrò sentito centinaia di convegni con la retorica, la formazione, investire nella formazione, investire nella scuola, poi vai a vedere, numeri alla mano, la scuola resta sempre a Cenerentola. Noi invece vorremmo dare coerenza alle parole, continuiamo a occuparci di questo anche perché c'è un rapporto molto interessante su formazione e ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, dicevo, domani sarà la volta di Orienta Giovani e ne parleremo domani, però c'è un'iniziativa lanciata a livello mondiale da McKinsey, che è una società internazionale di consulenza manageriale, per ridurre contribuire a ridurre il fenomeno della disoccupazione giovanile. Si chiama Generation e vuole appunto cercare di colmare un divario che c'è molto forte anche in Italia tra formazione e domanda invece di professionalità. Sono stati formati oltre 400 giovani, l'80% dei partecipanti ha ottenuto un contratto di lavoro, classi a Milano, Roma, Napoli e Venezia, e sono tutti giovani tra i 18 e i 29 anni, aperta sia a diplomati che a giovani laureati. La formula è quella del bootcamp, quindi vuol dire andare a fare esperienza sul campo, lo traduco dall'inglese, giochi di ruolo e laboratori. Vorrei chiedere a Oscar Pasquali, che è direttore generale di Generation Italy. Buonasera Pasquali. Buonasera a voi. Qual è, allora, meritevole l'iniziativa, visto che domani parleremo di Orienta Giovani, noi continuiamo a segnalare che oltre ai periti informatici, saldatori, fresatori, cioè tutte le professionalità che hanno a che fare con la manifattura più classica, fermo restando che le fabbriche in questi anni sono cambiate, sono altri mondi, sono quelli che mancano di più. E abbiamo ricordato anche nel rapporto di Radio 24 con scuola.net quello che fosse dal sondaggio l'indicazione: moltissimi giovani che ancora vengono indirizzati, non perché sia un male, ai licei, soprattutto al sud, ma non si vanno neanche a guardare gli istituti. O in classifica ho messo anche il caso di quel preside a Bari che, per attrarre all'istituto navale, dove c'è un tasso di occupazione altissimo, ha dovuto mettere in palio una crociera per gli iscritti a turno. Qual è il problema più forte che voi avete incontrato in quello che si chiama in inglese mismatching, cioè il mancato incontro tra domanda e offerta? Sostanzialmente siamo di fronte a un grandissimo paradosso. In Italia abbiamo 1.300.000 circa giovani che attivamente cercano lavoro e dall'altro lato abbiamo 730.000 posizioni di lavoro che le aziende definiscono difficili da ricoprire perché non riescono a trovare le persone con le competenze, le professionalità di cui hanno bisogno. Ecco, questa secondo noi è una delle cause paradossali della disoccupazione giovanile. Due mondi che si cercano a vicenda ma che non riescono a parlarsi. Se si va a vedere che cosa c'è dentro queste 730.000 posizioni di lavoro, ci accorgiamo che assolutamente il mondo del manifatturiero è molto rappresentato in tutte le figure tecniche, ma in realtà ci sono tutta una serie di professioni che vanno dall'addetto vendita in ambito retail fino al settore della ristorazione e ospitalità alberghiera, che possono essere, diciamo, oggetto di una formazione di breve durata, intensiva ed esperienziale, che può accelerare i giovani verso queste professionalità. Sicuramente c'è un tema di orientamento, ma c'è anche un tema di disallineamento formativo. Ci sono due mondi che si cercano, ma non si trovano perché non ci sono le giuste competenze a fare da ponte. E voi come operate, cioè, per saldare questa frattura? Generation è appunto una fondazione no profit che nasce con questo scopo, cercare di costruire questo ponte. Il ponte per noi sono percorsi professionalizzanti, esperienziali, intensivi e di breve durata, in cui sostanzialmente prendiamo i ragazzi e li mettiamo in un ambiente di simulazione lavorativa che parte dalle ore di formazione, che sono 8 ore al giorno, in cui gli facciamo fare le cose che si troveranno a fare nel mondo del lavoro, quindi non glielo spieghiamo in modo teorico, ma glielo facciamo provare, in modo da accelerare la loro preparazione e trovarli un po' più pronti per il primo giorno di inserimento in ufficio, in azienda, in negozio, ovunque sia il posto di lavoro per quali, su cui li prepariamo. Diciamo, alla luce dell'esperienza che avete avuto, i prossimi sviluppi di questa iniziativa, perché voi siete partiti dal cosiddetto formula del bootcamp, quindi attività di esperienza, giochi di ruolo, laboratori, e dalle 3 settimane fino per l'addetto alle vendite, alle 4 settimane per gli operatori dell'ospitalità e della ristorazione, e invece sono programmi più lunghi, 12 settimane per chi vuole sviluppare Java e quindi i programmatori. Voi notate anche una non conoscenza, visto che domani parleremo di Orienta Giovani, di quello che è il mondo, cioè una visione quasi tramandata dai genitori, dalla famiglia, dal contesto, che non corrisponde alla realtà di quello che è il mondo del lavoro? Sicuramente c'è un tema di mancata informazione, cioè magari non si conoscono bene quelle che sono le opportunità che il mondo del lavoro offre. Certo, la stampa sta facendo un lavoro di informazione per raccontare quali sono le esigenze delle aziende. Forse quello che manca delle volte sono delle opportunità concrete e accessibili per cercare di colmare questa distanza in termini di competenze. Una delle cose che caratterizza i nostri programmi è legata al fatto che non ci importa chi sono questi ragazzi, da dove vengono, che cosa hanno studiato in precedenza o che esperienze lavorative hanno fatto. Ci interessa quanto sono motivati, quale attitudine hanno verso questo tipo di professione e quindi la voglia che hanno di fare questo tipo di professione. Se ci sono queste 3 condizioni, sostanzialmente noi siamo convinti di poterli portare in termini di competenze tecniche, ma anche comportamentali e attitudinali, ad un livello sufficiente per renderli interessanti per le aziende, ovviamente per posizioni, diciamo, di primo impiego, quindi con ancora poca esperienza. Vorrei arrivare all'ultimo tema, perché poi c'è alla fine un colloquio con le aziende partner del progetto. Una cosa che mi scrivono sempre gli ascoltatori è: sì, ma guardate, ci sarà anche un problema di formazione, ma c'è anche un problema di retribuzione. Cioè, se tu offri 700, 800, allora, a parte il fatto che un conto è il salario di ingresso, a me non scandalizza, l'ho già detto, lo ridico, non scandalizza nei 700, 800 euro di salario di ingresso, perché tutti noi, anche quando c'erano le lire, avevo un salario di ingresso che era più o meno l'equivalente in lire di quello, ormai 1.350.000 lire. Ed è chiaro che ci stai dentro a fatica se riesci a starci dentro. Il problema poi è la progressione, e cioè gli scatti, diciamo così, successivi. C'è il tema salariale, perché non vorrei che poi tutto si concentrasse solo sulla formazione e magari poi, come vediamo, quelli formati vanno all'estero perché c'è una retribuzione più alta. Ma allora, sicuramente questo è un tema. Io posso parlare più che altro per le realtà che conosco direttamente, sì, e non in generale. Devo dire che le aziende con cui noi lavoriamo, certamente all'ingresso, la prima esperienza, magari la retribuzione non è delle più alte. Ma la cosa interessante è che c'è la possibilità di costruire dei percorsi. Faccio un esempio: noi formiamo ragazzi come addetti vendita, tra le altre cose, in ambito retail. Ecco, l'ingresso di questi ragazzi, quando avviene, ovviamente è un ingresso iniziale, quindi iniziano anche con forme contrattuali, come ad esempio lo stage. Ma la cosa più interessante è che queste aziende offrono delle opportunità di crescita anche in tempi brevi. Entrano come addetti vendita e poi nell'arco di 1 o 2 anni possono diventare store manager e poi hanno un percorso che può arrivare fino al responsabile di area o addirittura entrare nella corporate. Quello su cui noi cerchiamo di porre l'attenzione è quello proprio di costruire un percorso per questi ragazzi. E devo dire che da questo punto di vista le aziende che abbiamo incontrato e con cui lavoriamo sono molto interessate a far costruire questo percorso, appunto perché non riescono a trovare persone formate e qualificate con le giuste competenze per fare quel tipo di mestiere, in particolar modo per lavori che generalmente vengono considerati, lasciatemi dire, un po' dei lavoretti, no? Tutti conosciamo o abbiamo un'esperienza diretta di che cosa vuol dire fare un acquisto in un negozio, e quindi magari la vulgata è che tutti potremmo fare gli addetti vendita. Questo è un po' l'approccio generale. In realtà poi si scopre che ci sono delle competenze tecniche e comportamentali molto specifiche, dalle tecniche di vendita, il cross-selling, l'upselling, ma anche come si dà il benvenuto al cliente in un negozio, come lo si tratta, come si gestisce magari anche la situazione un po' più critica. Questo è quello che poi fa la differenza tra un addetto vendita di successo e un addetto vendita che invece magari dopo un mese capisce che quel mestiere non è più. Okay. Sì, resta un tema, sono d'accordo con lei, che non si fa solo con la parte salariale, a mio avviso resta anche un tema su alcune, ma ne parleremo domani perché domani abbiamo l'appuntamento anche con tutto il mondo manifatturiero. Grazie anche a chi appunto rappresenta la parte italiana, quindi Oscar Pasquale, direttore generale di Generation Italy. Andiamo sul traffico e poi invece il tema della web tax, che ha subito una battuta d'arresto, Macron lo diciamo in maniera un po' brutale, ma si è dovuto piegare alla minaccia di Trump. E tutto torna in alto mare nonostante le dichiarazioni europee. Focus Economia. Dicevo, ha piegato la testa Trump dopo le minacce di Macron, dopo le minacce di Trump sul 2 miliardi e 400 milioni di beni francesi che avrebbero subito dazio esportati negli Stati Uniti se la Francia fosse andata avanti sulla web tax. Faccio notare che noi l'abbiamo inserita nella manovra, invece ci aspettiamo più o meno 700 milioni. Il tema lo continuiamo a toccare e le pochissime tasse che i colossi web pagano laddove fanno ricavi e la posizione francese, inglese, anche in parte tedesca, italiana, fare pagare ricavi qui. Trump ha detto attenzione, se fate la legge vi mettiamo i dazi, e Macron ha deciso di aspettare. Il segretario del tesoro americano Mnuchin oggi in un'intervista a Wall Street Journal dice che dopo la Francia lo stesso rischio lo corrono Italia e Gran Bretagna. Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione Europea, dice vabbè, la Commissione Europea vuole evitare le ritorsioni, però insomma Angelo Mincuzzi, tu che da tempo segui questo tema, mi sembra che poi quando si va sugli scontri bilaterali, dicevo prima, Stati Uniti contro Francia, Stati Uniti contro Inghilterra, Stati Uniti contro Italia, i singoli paesi europei sono deboli, piccoli e perdono. L'unica posizione potrebbe essere quella comune europea, ma non c'è, perché dentro l'Europa ci sono anche Irlanda e Olanda, dico due su tutti, Lussemburgo. Che hanno ottimi vantaggi invece nel poter far pagare le tasse da loro e non dove queste aziende fanno i ricavi. Forse è un po' semplice la sintesi, ma c'è una soluzione che è quella delineata dall'OCSE, alla fine dell'anno scorso, con una svolta rispetto al passato, e cioè l'OCSE ha detto adesso faremo pagare, cioè la soluzione è far pagare le web companies le tasse nei paesi dove fanno i ricavi. Quindi dove è posizionato il telefonino o il computer che acquista un prodotto, lì la società dovrà pagare le tasse. Chiaramente è una rivoluzione copernicana, perché significa che queste società, che non hanno a volte presenza fisica all'interno dei singoli paesi e che quindi in quei paesi non pagavano le tasse, certo, adesso dovranno farlo, naturalmente, se si riuscirà a trovare un accordo che veda anche gli Stati Uniti consenzienti, perché l'abbiamo visto, Trump dice a me il vino francese piace, però che devo fare? Sono costretto a mettere i dazi se la Francia va avanti con la sua idea, no? E quindi, come si diceva prima, i singoli paesi da soli non possono far nulla rispetto. Volevo dare un dato. Dopo. Sì, no, dimmelo subito. Allora, è un dato che dà l'idea, no? È uno studio di Mediobanca che l'anno scorso ha fatto i calcoli tra le prime 15 società di servizi digitali al mondo che fanno affari anche in Italia, no? E in Italia hanno avuto un fatturato di 2,4 miliardi nel 2018 e hanno pagato tasse societarie per 64 milioni. Vediamo quindi la sproporzione tra queste cose. Le piccole e medie imprese vengono strozzate dalle tasse. No, ma anche gli artigiani, Italia, i commercianti e quelli che le pagano. Posso fare una provocazione? Visto che a livello politico non c'è unità in Europa e quindi il singolo paese, se va a fare la fine degli orazzi e curiazzi, cioè viene massacrato da un paese più forte, il paese più forte come sono gli Stati Uniti, forse la soluzione procura di Milano, cioè che zitti zitti apriamo delle indagini e poi sono le stesse società che vogliono transare, potrebbe essere una soluzione all'italiana? Ma cioè, senza avere l'accordo internazionale che fa arrabbiare Trump, non gli diciamo niente, noi continuiamo a aprire indagini, la procura di Milano lo fa e l'ha fatto con tantissime società, e queste poi invece che aprire un contenzioso preferiscono pagare. Allora, sicuramente è un po' l'italiana, è una strada un po' fai da te all'italiana, però ecco, nei casi singoli questa strada funziona, ma lo dico subito perché funziona, non soltanto perché fa pagare le tasse passate, ma perché regolarizza la posizione, quindi per il futuro fa entrare soldi, i soldi che queste società devono pagare anche nelle casse italiane. 1,3 miliardi l'anno scorso grazie a Kering, che non c'entra con web, perché non è solo un problema dei costi del web, ci sono anche molti grandi gruppi manifatturieri che fanno lo stesso giochetto. Grazie Angelo Mincuzzi. Dopo il GR24 andiamo invece sullo scontro tra Greta Thunberg contro Donald Trump, altri temi di Davos e quello che ho definito uno scontro generazionale tra nipoti e nonni. 349-238-6666 fra SMS. Ormai sai usare la fatturazione elettronica. Crei, invii e ricevi fatture ogni giorno. Ma ti sei accorto di spendere troppo? Passa alla fatturazione elettronica di Aruba. Puoi importare da altri sistemi i tuoi clienti, i prodotti, i servizi e le fatture in una soluzione completa e conveniente. Chi l'ha scelta non la lascia più. Risparmia con la fatturazione elettronica di Aruba su aruba.it. Con Suzuki 4x4 All Grip ogni percorso sarà una sfida da vincere. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip, risveglia il tuo istinto. Scoprila sabato e domenica. Info su suzuki.it. Suzuki. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Al mattino il latte incontra la genuina fragranza dei biscotti Duemi. E nel pomeriggio il tè reclama. Dove sono i biscotti Duemi? Dove sono? Che buoni i biscotti Duemi. Fai già accesso ai dati di Banca d'Italia. Da oggi puoi essere sempre connesso e presidiare gli affidamenti accordati dalle tue banche. MF Centrale Risk aggiorna automaticamente i dati della centrale rischi effettuando le analisi tipiche delle banche. Potrai visualizzare i grafici in CR, i fidi accordati, gli utilizzi, gli sconfini e tramite l'app riceverai le notifiche delle anomalie rilevate. Richiedi una dimostrazione su mfcentralerisk.it. mfcentralerisk.it, una garanzia Milano Finanza. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la borsa oggi giornata abbastanza incolore, meno 0,60% Milano, invariata Francoforte, meno 0,50 Parigi, Dow Jones invariato, Londra meno 0,50, euro su dollaro 1,10. Devo dire che oggi va male il settore lusso in Italia, ma è un ragionamento non linearissimo, cioè l'ipotesi di un'epidemia in Cina, l'idea che in Cina si possa bloccare gli acquisti nel periodo festivo, infatti il Capodanno cinese cade il 25 gennaio quest'anno, ha fatto vendere i titoli del lusso. Moncler meno 2,20 da un lato, che è il principale a calare, mentre non c'entra nulla con il tema cinese l'andamento di Case New Holland meno 2,45, Prismia meno 2,20, Atlantia meno 1,90, Terna meno 1,60 come era, Nex meno 1,50 come Pirelli, Ferrari meno 1,40, Snam meno 1,20 come Eni, Italgas meno 1 come Fiat, Chrysler ed ST Microelectronics. Banco BPM più 2,40%, non male oggi le banche, Biper più 1,30%, Unicredit più 0,60%, poi ricordati, va bene tutto il settore farmaceutico, oggi va bene in Europa più 0,90%, tra i migliori e peggiori

Allora, professor Magatti, sbaglio o al di là delle soluzioni, dell'approccio economico, cosa fare, della non di quello che mostrano molti, segnalano molti ascoltatori, che questo messaggio andrebbe rivolto anche a Cina e India, che sono i principali, oltre che gli Stati Uniti, paesi emergenti con alti tassi di inquinamento, non solo l'Europa. Qui non c'è qualcosa di più profondo, c'è uno scontro generazionale, chiamiamolo così, non tra figli e genitori, quello l'abbiamo visto nel 68, l'abbiamo visto negli anni, nei decenni successivi, secondo Freud è anche naturale l'uccisione del genitore, ma sapevamo fino a 15 anni fa che delle volte i nipoti parlavano meglio con i nonni, i nipoti precarizzati nel lavoro dalla globalizzazione si trovavano più con i loro nonni che venivano dall'esperienza della seconda, del secondo dopoguerra, che non con i loro genitori figli del boom economico. Qui mi sembra che la frattura invece riguardi proprio nipoti e nonni, se posso usare questo esempio. Sì, se seguo la tua osservazione, a me viene da sottolineare questo aspetto, che nel 68 appunto c'erano i figli contro i genitori, qui invece ci sono i giovani contro gli adulti, qui invece ci sono gli adolescenti, perché dobbiamo andare, sembra che dobbiamo andare ancora più indietro nell'età per trovare una generazione che è davvero interessata a lottare per la questione dell'ambiente. Greta è un adolescente, chi scende in piazza sono liceali più ancora che gli universitari, mentre invece troviamo la generazione degli adulti ultra settantenni come Trump che sono ancora al potere, e quindi è come se la società si fosse allungata e la parte adulta, diciamo, grazie anche all'invecchiamento, arriva a occupare le posizioni, a preoccuparsi del mantenimento di quelle fino a essere a nonno, mentre invece bisogna andare ai nipotini per trovare qualcuno che ha ancora il coraggio di mettere in discussione un po' l'ordine delle cose. Questo però che cosa, da un lato noto che chi dovrebbe dire qualcosa, cioè tutta la generazione di mezzo, è molto più silente, come se da un lato si stessero confrontando due modelli: chi sta, come dicono gli americani, nella comfort zone, cioè nell'area di comodità di chi ha guadagnato, anche legittimamente ci mancherebbe, è aumentato il potere d'acquisto, la ricchezza in questi decenni, e dice per favore adesso non rovinate tutto questo mondo con queste istanze pessimiste, come le ha chiamate profeti di sventura, come le ha chiamate oggi Trump. E dall'altro appunto i giovani, che però non sono ancora a pieno titolo nel ciclo produttivo, molto spesso non lavorano anche perché sono adolescenti. Non c'è un silenzio molto forte di chi potremmo chiamare nella fascia di mezzo, cioè chi va dai 35 ai 55 anni, che ancora leve decisionali, ha un potere anche del lavorativo, ma non è nella parte, diciamo, finale della sua vita, del suo percorso professionale, ha ancora decenni da giocarsi. Sì, assolutamente sì, ma c'è una spiegazione, ci sono diverse spiegazioni naturalmente di questo silenzio, ne cito solo due. La prima è questa, che la questione ambientale è tipicamente, proprio per antonomasia, riflette ciò che Beck qualche anno fa scrisse a proposito della città del rischio, cioè è qualche cosa che non dipende da una percezione diretta, non è che vediamo un fuoco davanti a noi o vediamo un terremoto che ha distrutto qualche cosa. Il rischio viene valutato in base a tutta una serie di parametri che devono essere proposti dalla scienza, devono filtrarsi nei mass media, arrivare, diciamo, nelle diverse componenti della società, col risultato naturalmente che è sempre molto difficile avere una comune valutazione del rischio. Il secondo grande problema è che attorno a questo rischio, che difficilmente appunto riusciamo a valutare in maniera comune, ci sono interessi molto diversi, interessi tra paesi diversi evidentemente, e gli Stati Uniti hanno una certa posizione perché sono a un certo livello di crescita economica, diverso dall'Europa, diverso dalla Cina, diverso dall'India, ma anche interessi diversi dal punto di vista sociale, cioè oggi i più poveri tendono a essere più freddi nei confronti anche dei cambiamenti necessari, mentre invece i benestanti tendono a essere più favorevoli. Quindi la matassa è molto aggrovigliata, col risultato che la generazione di mezzo, che è quella che dovrebbe agire, alla fine si trova confusa, bisogna andare da degli adolescenti che sono anche, se vuoi, molto naif, per avere una posizione chiara che è quella che dovremmo assumere. Allora, qui ci sono due elementi a mio avviso e vorrei poi sentire anche Stefano Carré. Da un lato il rischio che, come mi scrivono alcuni, tutto questo risulti molto velleitario, cioè se non includi anche India e Cina in questo processo ti stai rivolgendo solo alla parte più sensibile, perché te l'Europa è avanti anche rispetto agli Stati Uniti, e dall'altro il dialogo tra sodi, cioè che questo movimento poi lentamente si svuoti, si smonti e noi si continui ad andare avanti a sopravvivere semestre dopo semestre, anno dopo anno, però con un piano inclinato. Dopo il traffico, la risposta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Professor Magatti, ripeto la domanda, cioè, qui il rischio non è che lo scontro sia tra paesi ricchi e che iniziano a dire non possiamo più mantenere questi tassi di produzione, di inquinamento, e paesi che o si sono appena seduti al tavola o stanno per sedersi a tavola e quindi dicono aspetta un attimo, fino a ieri avete fatto quello che avete voluto quando il modello era quello occidentale, adesso che c'è anche Cina e India volete spiegare a noi che non si può più crescere all'infinito dopo essere stati seduti a tavola per decenni. E questa è una delle tante fratture che rende difficile la partita. Io credo che la questione ambientale vada vista come una grande novità storica, cioè è uno dei portati di lungo termine della cosiddetta globalizzazione. Noi abbiamo davanti un problema che riguarda tutta la Terra, solo che noi non abbiamo né un livello di decisione politica né una cultura economica e politica in grado di affrontare un problema di bene comune invece che di somma di interessi individuali. Questa è una grande sfida per la nostra cultura, perché sembra che, i fatti lo dimostrano, sembra che non siamo in grado di affrontare la tematica che sfugge, quella degli ultimi due secoli. Stefano Carrer, è emerso in maniera se uno guarda le immagini, insomma, emerge in maniera plastica, proprio iconografica, questa differenza, questa frattura tra i nipoti e i nonni, chiamiamoli così, ma gli altri paesi partecipanti, perché sappiamo che a Davos vi sono anche tanti esponenti, sia come manager numeri uno industriali che come politici dei cosiddetti, una volta si chiamavano BRICS, insomma dei paesi in via di sviluppo che si sono sviluppate, le economie emergenti, Cina, India, Indonesia, Vietnam. È emersa una frattura anche geografica oltre che generazionale, quella generazionale mi sembra abbastanza chiara. Sì, quella generazionale l'ha evocata la stessa Greta. Quella tra paesi avanzati e paesi emergenti sta sempre sullo sfondo, è un problema delicatissimo ed è proprio, diciamo, sta alla base anche del fatto che Trump sia uscito, abbia annunciato appunto l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, proprio perché secondo il presidente americano, se non sono full board anche i paesi emergenti, ovviamente dal suo punto di vista si tratta di una penalizzazione per l'economia degli Stati Uniti e le altre economie avanzate, quella di mettere dei parametri anche costosi per raggiungere degli obiettivi di carattere ambientale. Certo, oggi Trump, vorrei segnalare, quello che avete fatto sentire è solo la parte finale di un discorso di mezz'ora, e gli unici riferimenti che ha fatto al tema che sarebbe il tema chiave di questo forum, cioè l'ambiente. In realtà prima aveva citato solo il fatto che grazie a lui gli Stati Uniti sono diventati il maggior produttore mondiale di petrolio e di gas, e ha invitato gli europei a acquistare dagli Stati Uniti più che da altri paesi. No, ma Trump è un piazzista quando parla dell'America, l'abbiamo visto anche sulla web tax, cioè fa gli interessi totali delle sue aziende. Adesso vengo anche a questo aspetto, Stefano, però per salutare il professor Magatti, che rischio c'è, come mi segnalano alcuni ascoltatori, che non tanto per Greta, ma per chi ha organizzato il forum di Davos, questo sia quello che gli americani chiamano greenwashing, cioè una mano di verde, mettersi a posto la coscienza e poi tutto si faccia sfumare lentamente. Beh, il rischio c'è e lo vediamo nel momento in cui per molti la sostenibilità sta diventando appunto un'etichetta che ci si mette addosso e ci si risolve facilmente il problema. D'altra parte non c'è nessun'altra strada, dobbiamo insistere su questa crescente consapevolezza e un po' per volta cambiare i nostri atteggiamenti. La cosa buona mi sembra che una parte consistente degli interessi economici, compresi quelli finanziari, si rendano conto che il tema della sostenibilità alla fine si tradurrà anche in un costo economico. No, ma si sta già traducendo in valutazioni che le banche, per esempio, non solo fanno sulla sostenibilità complessiva di un'impresa, cioè che politiche hai di sostenibilità. A mio avviso, molto modestamente, servirebbe anche forse uno sforzo in più per comunicare che la stessa sostenibilità a sua volta è un settore economico, è un'industria trasversale, per carità, ma comporta anche la creazione di posti di lavoro, non solo la distruzione, perché sennò il confronto tra generazioni non se ne esce. Nel ringraziare Mauro Magatti, vorrei chiudere con Stefano Carré sull'invece l'intervento di Trump, che, come tu ricordavi, io l'ho definito piazzista in senso buono, è andato lì a dire: grazie a me abbiamo un periodo di crescita mai visto prima. Non è vero come dato economico, come dato statistico. Abbiamo fatto un accordo con la Cina, il migliore di sempre, sia con la Cina ma anche con il Messico e col Canada. Stefano, Trump è in campagna elettorale, però è innegabile che rispetto al suo progetto iniziale di un'America che pensa prima a se stessa e fa meno politica estera, qua ha fatto politica estera enorme e vada in qualche modo all'incasso, no? Sì, ma diciamo, lui ha fatto però un discorso che è anche una specie di comizio elettorale, perché una buona parte del suo discorso è stata dedicata al fatto di sottolineare che anche le fasce deboli della popolazione, anche le minoranze, con lo scossone economico che lui ha dato, si sono avvantaggiate, e quindi su questo testimonierebbe che il suo approccio è migliore di approcci opposti. E se vogliamo richiamare il dato politico di questa Davos, diciamo che mentre 2 anni fa, quando è arrivato Trump, c'era piuttosto una certa preoccupazione e allarme diffusa su cosa avrebbe fatto, lui aveva annunciato queste cose. Adesso, secondo i riscontri che insomma si possono percepire, non c'è panico all'idea di una rielezione di Trump presso la platea qui di banchieri. Anche perché mi sembra... E questa è forse la più grande smentita al fatto che appunto da qui questo sia, non so, il trampolino di lancio di una vera svolta ecologista, ma questo anche perché i candidati democratici che stanno emergendo probabilmente propongono delle politiche che al big business che è qui presente, diciamo, vanno meno bene dell'unilateralismo, del negazionismo tendenziale sull'ambiente di Trump. Sì, devo dire che adesso poi c'è tempo per parlare della campagna, ci sarà tempo per parlare della campagna elettorale americana. Mi sembra che i candidati democratici siano complessivamente molto deboli, tanti ma deboli, insomma, cioè che non vi sia nessuno che stia spiccando come capacità di visione, di alternativa rispetto a Trump, ma staremo a vedere. Grazie intanto anche a Stefano Carreri in collegamento con noi da Davos. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.